quel fremito nel mare, perché mi fa star male. Sono vascelli alle porte che cambieranno la mia sorte. Anche l'onda sembra dimessa, scivolando sulla spiaggia, ferita dalla rabbia del potente Barbarossa. Fato o destino, o molto più semplicemente la storia di uomini che cercano nel fango un momento di gloria. E poi, come sempre mi tocca a me sbrigarla una donna. Sapevo che non sono solamente una madre e una sposa, però speravo che fosse soltanto un detto e una scusa. Per quando le spalle curve andrò in cerca della luna. Ritrovo il mio sapore dove finisce il mare, comincia la paura là sotto quelle mura. Un soffio di grecale può far cadere la mia torcia dalle mani e di me e dalla mia gente e dei miei cari non sarà oggi e né domani, ma solo un fumo tetro sul colle di San Pietro. Esplode nella via un concerto di fuochi e di speranza che l'umanità di questi gesti possa un giorno fare senza. Di un gesto disperato che vorrei dimenticato.